molto spesso non mi trovo d'accordo e molto spesso non mi trovo d'accordo e molto spesso non mi trovo d'accordo e molto spesso non mi trovo d'accordo. My father name was Elijah and my name is Ragnar Pizer. Sento che stasera c'è l'energia giusta nello studio 1 di Controradio per una fantastica puntata di Ragnar Pizer. Molto! Caro il mio biga. Eccolo. Sarà che ci hanno finalmente arrestato Duccio. L'hanno portato via. Pare che l'abbiano rinchiuso dentro uno Starbucks di Berlino. Da stamattina è lì e non riesce ad uscire. Mi sa che è colpa della Bea e lei non lo fa uscire. Ci chiedono un decino di euro per averlo indietro, ma noi abbiamo provato a fare una colletta ma non ci arriviamo. Beh, non c'ho un cash. Appunto. Non c'ho niente. Quello che avevamo l'abbiamo speso in piadine, è andata. Duccio, ci spiace, ti manderemo qualcuno in bici a prenderti, va bene? Una graziella così c'è posto dietro. Ho sentito le due puntate di Ragnar Pizer nelle quali ero ingiustificato assente. Ragnar Pizer! E devo farvi i complimenti, insomma. No, ti ringrazio, caro. Benissimo, Anche il tuo esordio al microfono, voglio dire. Niente male. Maledetto. C'erano le fan che aspettavano apposta il momento. Senti, allora. Il nostro ci ha rimesso in loop. Il buon Tommy ha rimesso in loop la sigla. Succede. Che va vuol bene. Dire che siamo alle strette e dobbiamo presentare il nostro ospite, perché questa è una puntata molto speciale. Per la prima volta proviamo questo esperimento. Mancando uno dei DJ residenti di Ragnar Pizer, diciamo, ci abbiamo un ospite di tutto riguardo. Sì, diciamo che l'occasione si è presentata questa, okay. Però in realtà è una cosa che vorremmo fare con più frequenza possibile, di avere ospiti nazionali, internazionali, della porta accanto, quello che è. Gente che vi piace, gente che ci piace, che speriamo naturalmente piaccia anche al nostro pubblico e che ha a disposizione i soliti 20 minuti che hanno a disposizione. I soliti 20 minuti. Questa volta l'ospite arriva dal Belgio, da Bruxelles per la precisione, si chiama Fabi. Fa parte di un collettivo che si è formato nel 2002, il collettivo si chiama The Laid Back. Questo nome del collettivo è anche il nome di un blog che così a prima vista, devo dire, è molto molto ben fatto, anche nella veste grafica oltre che nei contenuti. Lo trovate al sito www.laid, scritto laid, trattino back.be /blog. E lì trovate un sacco di buona musica da sentire. Lo spirito della trasmissione, perché The Laid Back è una trasmissione radio. È nato come trasmissione radiofonica, proprio come Ragnar Pizer, nel 2002. Nel 2002, un sacco di anni di attività, la musica che loro promuovono spazia anche in questo caso dal soul al funk, il jazz, passando per la musica psych e il prog rock, che mi sa che è l'ingrediente principale della storia. Esattamente, è stato il collante della storia, perché comunque io questo brother l'ho contattato tramite Mixcloud, che appunto ho trovato. A lui era piaciuto un mix mio, io sono andato a vedere i suoi e c'era questi mix potentissimi chiamati Ultimo Delirio, che vi consiglio, a Mixcloud.com/ fab-e. E sono per la maggior parte mix di rock progressivo e psichedelico. Questi in particolare, l'ultimo Delirio, sono dedicati esclusivamente al prog italiano, al degli prog anni rock 70. Italiano degli anni. E c'erano tanti titoli che non conoscevo, tra l'altro, devo ammettere, e quindi sono rimasto abbastanza colpito. E l'idea di far suonare a un DJ belga roba italiana, cioè prog italiano in trasmissione, beh, è stato il passo successivo. Secondo me un'idea azzeccatissima. Giudicheranno poi i nostri ascoltatori, che al solito troveranno su ragnarpaisa.blogspot.com a partire da domani pomeriggio tutta questa puntata, compresa la tracklist di Fabi. L'ultimo link Biga vi ha dato il SoundCloud, io vi ho dato quello del blog, ve lo do io, è http://ldbk, che poi è l'acronimo di Laid Back Crew, .eu, quindi ldbk.eu. Questi sono i tre link del primo ospite con le selezioni di Ragnar Paisa. A questo punto buon ascolto. Buon ascolto. Fabi. Ragnar Paisa. Accettiamo di distruggere quel muro assurdo sceno che divide, ricalcando ottuso il misfatto già commesso di un tempo che discrimina. Thank you.

Beh, devo dire che nella lunga storia di questa trasmissione, che si chiama Ragnar Paisa, forse nessun set ha avuto tanto apprezzamento dei nostri ascoltatori quanto questo di Fabrizio. E non era un set nostro, questo, questo la dice lunga. Visto? Bisogna avere più ospiti, più ospiti. No, abbiamo ricevuto, a parte gli scherzi, quelli fisici. Guarda quanti ospiti c'è qui stasera, guarda. Ci manca Duccio, ma abbiamo recuperato alla grande. C'è uno che è tornato da Hong Kong. Apposta. C'è uno che è tornato da New York. Apposta. C'è uno che fra un po' va a Minnesota. Che vuoi di più, oh? Sembra sta all'aeroporto stasera. Appunto. Grande, grande, grande, biga, fai a Fabi, complimenti per noi. Noi vi ricordiamo i link che vi abbiamo dato, soprattutto live-back.be. Questo è il blog di Fabi, appunto il DJ belga responsabile della trasmissione radio, del blog di cui vi abbiamo parlato, che è proprio quello che ha confezionato questo mix da 20 minuti dedicato interamente al prog rock italiano degli anni. Super pezzi, poi domani per i curiosoni, tracklist anche dei pezzi dell'amico belga. Ovviamente su ragnarpaisa.blogspot.com. Con soluzione di continuità andiamo in Brasile col buon Biga. Al prossimo break vi ricordiamo un sacco di appuntamenti per questo fine settimana, molto molto interessanti, su vari fronti, vari generi musicali che potrete ascoltare dal vivo. Per ora Biga a Ragnar Paisa. Vai vai vai vai vai! Biga! Que você quer ouvir? Não procure dançar ao som daquela antiga valsa. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muito simples, é muito simples. É só mudar de estação. É só girar o botão. Se o carro não para na porta de quem sabe te curtir. Sim. mão. Arrepios que bem que me fez. Meu quarto todo em perfumes, provocar ciúmes de não ser você. Ó vento livre que voa, que estrada tão boa que tem pra correr. Meu quarto. Você tem que ir embora. Já começa amanhã. partir agora. Aperte os cintos para decolar. È andato giù lisergico parecchio anche te stasera. E poi, ultimamente va così. Un po' continuando sull'onda del nostro sull'onda, amico belga. Sì, un po' più leggera forse. Hai un po' visto? Di fuzz. Quanti ottimi feedback sono arrivati per Fabi. Ma sono sicuro che i nostri ascoltatori avranno apprezzato anche molto la tua selezione. Tutta molto carioca questa sera. Brasileira più che carioca. Sì, no? Brasiliana. Tanto suono di Minas Gerais in particolare. Fine 70-80? Anni 70, perché comunque quel tipo di suono lì sono psichedelia, folk. Ho suonato molto, molto tipo più fuzz, anche molto 60. Ok. Stasera. Invece prometto a breve una mixtape di solo 70, solo folk psichedelico. Anni 70, solo folk psichedelico, sì. Solo brasiliano. Tra l'altro di questa roba invece l'ho suonato più stasera, che è tipo più fuzz, più garage, molta roba era più di quel tipo lì. C'è una ottima compilation che è uscita l'anno scorso, si chiama Brazilian Fuzz Guitar Bananas. Mi ma sembra, si chiama così? Mi sembra, sì. Non mi fiderei tanto a guardare, sì, la tua faccia, però. Oddio, perché il titolo è lungo, vecchio. Però è un'ottima compilation di solo garage fuzz brasiliano, solo brasiliano. Se quest'uomo qui vi incuriosisce in radio, andatelo a sentire anche dal vivo. Perché vede proprio come protagonista Biga, il primo evento che vi segnaliamo per questo weekend. Arriva precisamente il 13, che fammi guardare l'orologio, fra tre giorni. Attenzione. E si svolge al Tabasco Club, dove si sposta la serata Lido Palmira, che vedrà appunto come protagonista il Biga. 13, Tabasco Club, Firenze, Biga and DJ Set. Poi, il giorno dopo, venerdì 14, ritorna by public demand, direi, dopo la fantastica session di qualche mese fa a Firenze, Mr. Gopher D, ormai solamente Gopher, o per usare il suo ultimo a.k.a. King Blesso, che arriva con la sua selezione di solo 45 giri, solo 7 pollici super funk della sua collezione, a suonare insieme agli altri di Overnights al Cargo, ingresso gratuito, venerdì sera a Firenze, via dell'Erta Canina, se ricordo bene l'indirizzo, sì, proprio davanti alla Beppa Fioraia, per intendersi. Sempre Gopher si sposta poi a Pisa il giorno dopo, il 15, che è sabato, al Nevroz, che è un centro sociale pisano, resiste. Presto in arrivo, a proposito dei centri sociali di Pisa, anche ottime news, anzi ve le diamo da subito. Il prossimo 29 di gennaio, tenetevi liberi, perché il Nevroz festeggia la propria resistenza con un DJ set imperdibile che vedrà protagonista la nostra Cooly G, sentite spessissimo nelle selezioni di Duccio. Ultimo appuntamento che vi voglio segnalare, sempre il 15, quindi sempre sabato prossimo, ma a Firenze, al Viper Club per la precisione. Arriva la crew inglese di Foreign Beggars, una super crew a metà tra grime, hip hop e dubstep. Veramente fantastici i loro live, imperdibili. Peraltro, se volete sapere di più su di loro, restate sintonizzati, perché su Mixology venerdì prossimo, ma da domani su tutti i social network, partite dal mio Facebook, una lunga intervista con speciale sulle loro ultime produzioni. Basta, detto tutto, ho perso anche il fiato, vado di là sul pianerottolo coi fratelli. Bye, brother. E vi lascio nelle mani di Tommy, buon ascolto. Another MC will drop off the face of this earth for what is it's worth. I've been the nastiest one since birth. I'll do the simple shit, strike harder than Hopper. L, the maladjusted MC, fun crusher. Massive, I suffer my condition. Automatic, onslaught, connect thoughts, get jostled at your position. Listen, abort mission without further discussion. Dual personality, half meek, half bum rock. Doc Jekyll, when I burn your paragraph down to a haiku. So Tootsie, roll the fuck back to your seat, cause I don't like you. I got 100 beats, all nicer than your joint. Karaoke MCs need not receive G's, that's the whole point. Be out within the crowd, get open like herpes simplex. So vex press, you find out I put more crush on crews than jets. You're just that simple, plus overfunded, but that's the status. Go caught my shit, you been and that's it, so stop the madness. But hip-hop guidelines, I state I never liked authority. When sales control stats, I place no faith in the majority. Pick up your microphone. Yo, how many mics do we rip on the deli? Say me say mini money, say me say many many many. How many mics do we rip on the deli? Mini money, say me say many many many. I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same like the love Doctor Strange. I'm tame like the rapper. Get red like a snapper when they do that. Got your whole block saying true that. If only they knew that. It was you who was irregular. Sold your soul for some secular music. Is whack plus you lose that. You over and over. Claiming that you got a new style. Your attempts are futile. Ooh, child. You're puerile. Brainwaves are sterile. You can't create. You just wait to take my tape. Laced with malice. Hands get callous. From ripping microphones from here to Dallas. Go ask Alice if you don't believe me. I get inner visions like Stevie. See me ascend from the chalice like the Weeby. Indeed be like Calip Hum. MCs make me vomit. I get controversial. Freaking style with no rehearsal. Ooh, contrary move, friend. Don't you even go there. Me without a mic is like a bee without a snare. I dare to tear into your ego. We go way back like some ganja and Palico or Calico. Vision, my mind's making decisions in your anatomy. And I back this with Deuteronomy. Made this word you can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yeah. Hey, hey, hey, hey. Rapping is fundamental. Hey, hey, hey, hey. Nice and smooth, it's going down. Hey, hey, hey, hey, hey. It's either Boogie Bear Bronx, BK Connection. In your midsection, Boogie Down Bronx, BK Connection. Feel it in your soul. In your midsection, Boogie Down Bronx, BK Connection. Feel it in your soul. In your midsection, Boogie Down Bronx, BK Connection. Feel it in your soul. In your mid, I know a whole lot of niggas trying to do what I do, but they be imitation. They ain't got a clue. What they need to do is sit back and sip a brew. All I wanna know is can you woo woo woo? Put your hands up. Higher than the kite. It's time to get the dough like my name was Suge Knight. Put 5,000 down on the Mike Tyson fight. Got love for Slick Rick, got love for Pan Fight. Houdini said the best of freaks come out at night. There'll be no limitation to the imitation. There'll be even imitation in your own foundation. While it's A, B, the flavor of the month. If I don't get my juice off, I'm gonna catch a bit. As the world turns, only one life to live. I know you're digging this type of shit right here. We about to spark it on the mic. When I walk down the block, it reach in my pocket. Yo, where's my knot? It follows me into the spot, compelling. Go check the dread, and yes, he's herb selling. Up and out the gate, I'm a potential felon. Ism is smelling, like I ain't even telling. Channel 1, 2, I'm smashing the law. Channel 3, I make a run to the store. Channel 4, leave the store with the Philly, cause I spark the ism. I'm off the channel live. Wake up in the morning, got the yearning for herb, which loosens up the nouns, metaphors, and verbs, and adjectives. Magic kid, what I'm kicking. Multi-flavor bags and sex for the picking. So listen to the ism as it talks non-stop. Hawaiian when I'm rhyming, but so is the chocolate tie. Now the high starts to settle. Kicking fat lyrics that rocks like heavy metal. I'm coming out in odds with a slip of sense. See, when I speak, big up Matt, L-O-N-M-L-E. Like John Lennon, yes, I'm I-C-M-N. then I start grinning and syllables start bending. My style is untangible, like a wild animal. Check the label as it goes round, it's all capital. That's what I'm smacking you with, cause it's easy. Like Lionel Richie, your whole style is bitchy. Switch me, mix me, somebody get me. Don't let me rip out my clothes like Bill Bixby. Ripping a microphone till I'm motherfucking 60. Smoking an endo by the window is sticky. The script, being the guards getting ripped. Blunts in the grip, 40 dogs in my lips. Had a box, boom, boom, the bass would blast. He was laughing at all the girls that passed. Conversation, mothers had to get to the sky. Hey, yo, Mom, remember that kid to bust? Oh, yeah, he ran, but he didn't get far, cause I dropped him. Not knowing exactly what line ahead. My little brother, my mother sent them out for break. Get the one cup, it's a hot day in the summer. Didn't expect to come across a crazy gunner. Hey, short, check it from the bag of the dough. But he was brave, looked him in the eye, said no. Money splattered him, bowed, and he snatched the bag. Hit his pockets, then he jetted up the ass. Girl screaming, the noise up and down the block. What? I ran frantically, then I dropped down to his feet. I saw the blood all over the hot concrete. I picked him up, and I held him by his head. His eyes shut, that's when I knew he was. Oh, man, how do I say goodbye? At the mercy of God, straight up back up, I keeps it hard. You like to watch, but can't touch this nigga or catch a charge. Poppy Chulo, karate chops, just like judo. Fucking Kulo, make you quit rapping and sing with the noodle. Underground's where we live, and that's where we be when you leave. Over G, I'd rather be rocking Apollo Creed. Time to speak up. Faggot niggas dropping these weak cuts. Where the B-boys, how's about some hardcore in the speakers for the mic dawn? Cause we call it like the arm, call it warm. PMD shining with my stripes on in the saddle. Fuck around, get your shit rattled. No paddles up Shit's Creek when time to battle. Same place, same bat times, fuck the bat channel. This nigga, I'm just a game. Get your pockets bigger, Biggie Pocket. These one love, I'm still my fucking niggas. We don't need no gat, just cock me fucking back and watch me spit fire lava lyrical fact. It's a sign of a miracle bat. My iron spitting ain't peeling your cap. Me and the devil had a spiritual chat. Cause I'm eviler with lyrical rap than a black cat on a black night. And I'm black in the moon shining. I'm sipping Starsky and Hutch while my rim's blinding. Why P rolling the Dutch? Cause I'm too much for Mars. The grand paws and stars. Run the windows to your cars. When owls at large, who the fuck's in charge? Charles lost in the sauce. I got his mom sucking my balls like a fresh back of hall. Some foreign power, some group of terrorists, some individual concern, fighting an enemy. Fighting an enemy. The race that controls the past controls the living present, and therefore the future. The future of the group is in doubt. And they played it in the music. The future of the group is in doubt. And they played it in the music. Lyrics have been rather controversial. Controversy in the rap world. The question is whether in fact we are free as people. The question is what it is. Having an Afrocentric point of view. If you don't know your past, then you don't know your future. There is something changing in the climate of consciousness on this planet today. Public enemy. Word. Rap. get it on. Like we said before, single brothers for the trouble, hate the busted bubble, cause we rumble from our lower level. To condition your condition, we're gonna do a song that you never heard before. Make it all jump along to the education. Brothers gotta work it out and stop chasing. Most of the fire, cause I'll never be quiet. Let's start this. Shh. bravo, bravo, bravo. Una selezione doc, ma con quei tocchettini anche. Cioè, c'era la situazione di là. Già non ci capisco niente, ando da solo. Eravamo in sette di là. Posso immaginare. Dico, quei tocchettini di concessione alla storia anche del pop, no? Sto pensando a Michael Jackson. Fantastico. Chissà se avranno apprezzato i nostri ascoltatori della prima mezz'ora. Non lo so, non cioè lo quelli so. Del prog rock. Non italiano. Lo so, non lo so, speriamo. Beh, se vi è piaciuto anche questo, siete un po' come noi. Non ci ha chiamato nessuno per insultarci, quindi forse sì, o forse no. Se come noi vi piacciono sia quelle cose che queste, beh, allora siete proprio ascoltatori di Ragnar Paisa. Nel target che ci piace a noi. Allora, fammi dire una cosa, poi tanto c'è tutto da dire te, quindi poi ho no, fatto. No, ma io ho già finito. Hai già fatto anche te? Sì. Allora, volevo consigliare a tutti, ormai l'ho detto a tutti, questa settimana ho fatto una testa così. Le videocassette col corso di ballo di Biga? No, quelle già sai. Allora, c'è a giro questo mix di Hat Chemist, anzi in realtà sono due mix di Hat Chemist. Quello africano? No. Uno si chiama Disco is Dead e l'altro si chiama Hip Hop Leaves. Andate a cercarveli, cioè le soluzioni sono tre. O andate su il SoundCloud di Cat Chemist, okay. O andate su Google e scrivete Cat Chemist Hip Hop Leaves, oppure andate su Pippo Mixes, il nostro blogspot preferito. Io ormai ce l'ho impostato e posto di Google sul computer, okay. Andate lì, scrivete Cat Chemist e vi sentite / scaricate questi due mix. Fantastico. Io ti dico, era un pezzo che non sentivo, un mix di hip hop veramente, che lo metti e dici Dio santo. No, ma ti chiedevo questo perché anche qui il mio consiglio sarà un po' vago, in realtà io non mi ricordo neanche il titolo, però Cat Chemist giusto un paio di mesi fa aveva fatto uscire un mix solo di roba africana. Quello che mi sa che era una registrazione tipo prima di un live di Mulatto, può essere. Può essere, sì. Una roba tipo a 45 giri. Era collegata a una cosa del genere. Sì, me lo ricordo, bomba anche quello. Ovviamente. Però è più vecchio di qualche mese fa, ma esatto, insomma, se sì, capitate, sì. Se vi mettete lì alla ricerca dei mixtape di Cat Chemist ne sa sempre troppo. Se avete fatto un po' la conta, avete considerato il nostro assente Duccio, che ci ascolta da Berlino, ci ha mandato un messaggio su Facebook. Ah, ma dai. Dice, occhio che vi tengo Sturmstruppen. Vi tengo sotto controllo. Sturmundrang. Sta sempre lì allo Starbucks, Von Tuccio. Yeah. Ce lo vedo con l'occhialino quello appoggiato, sai. Solo su un occhio, no? La lente. Comunque da Starbucks, ora mi farò un sacco di nemici, ma sono i dolcini alle mele che spaccano. Duccio, provali. Vabbè, anche io sono pro, assolutamente. No, perché sai, c'è un sacco di gente che ce l'ha con questi ex fricchettoni degli anni 70 che sono venduti al capitalismo più becero. Vecchio, finché è aperta la toilette, no problem, da Starbucks. E finché c'è il wifi, gratis. Esatto. E altre cose. Basta, dai, diamo tutto lo spazio che rimane fino alla conclusione di questa trasmissione di Ragnar Paisa al buon Bubu, che è Colossius. State sintonizzati perché ci sono uscite nuove di DJ Galessio in previsione, ma poi soprattutto c'è l'EP Telefono Casa. Eh sì, eh. Di cui tu sai qualcosa, che vede protagonisti sì. Proprio il nostro Colossius e DJ Galessio. E qua parte la ola nella curva dello studio 1 di Controradio. Poi peraltro il Crisci, che è DJ Galessio, lo sentirete live a presentare The Yellow Book la settimana prossima all'Ex 3, Centro d'Arte Contemporanea di Firenze, ma avremo modo di ricordarvi. Yeah. Basta, detto tutto, Bubu, vai tu. Buonanotte, ci ritroviamo su ragnarpaisa.blogspot.com da domani pomeriggio. watch the ball. Watch the way I climb around your hall. Walking up walls, sideways and I stall. Throw the web on you all, back up with a U-Haul. Wreck your rep like Eddie on an LA strip with RuPaul. Yeah, you got the gall, a bitch in a shawl. Rockin' New Mall, poppin' pussy, knockin' niggas on Raw. Talkin' about he got a crazy Benz. Pattin' fussy every second, where's the ATMs? When you peep at my shit, it's just a wavy lens. Dose secondary, yo, do what I bake for the fake. Two shakes of Scary Spice and I'm off with the cake. On a rack for the track, let it cool off then black. Your whole crew want a snack after they nap, running up on me. But I told y'all kids, that's for the company. My symphonic monopoly, philosophy sloppily, edges notes awkwardly, quarter to three, brass amp with a gas lamp, white wig, slang wolf gang, English chamber orchestrating a deadly banger, cliffhanger, the stranger with anger, Prospect Park the strangler. You couldn't catch me in the swamps, the six navigators, alligators, maps and calibrators. Yo priest, throw the shit that keeps them on their toes like ballerinas. Ballerinas. It's the It's the return. It's the return. It's the return. It's the return of the prime time. That's it, that you get pat, expect cassette epithets. Epileptic ellipses, my thought eclipses, lapses in your fractal jelly jar. Czar, dictator, often imitated and hated by many. Judge me by my foes, judge me by my foes. Enclosed foes, judge me by the fact on a track. I reenact a fact that is only known in an intimate zone with a mic bone. I ignite tight poems. I'm known to write trifling poems on homes of grown kids with blown wigs that live in cribs and sleep under stairs when cheers, three cheers. HP lives like friends. Put your damn on, put your fake eyes on, cry on, cry on. My soul, sing about the freedom of my. We'll be right back. going by. Really? Totally. Okay. All right. Sounds awesome. All right, I'll see you tomorrow night. Awesome. Yes! Yes. biatch.